La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto a tutti i cinefili in astinenza da sala ma in overdose da streaming. Io sono Franco D'Assisi, questa è La rosa purpurea speciale 2 giugno. Quando in radio mi hanno chiesto una puntata per questa festa della Repubblica che esulasse dalle tematiche naturali del sabato e della domenica, ci siamo chiesti quale potesse essere il focus che mettesse insieme il cinema, come lo raccontiamo noi alla Rosa Purpurea da 20 anni, film, interviste, novità, recensioni, e il momento che il nostro paese sta attraversando. E ci siamo resi conto che questa data, il 2 giugno, era la cerniera ideale fra quel che è stato e quel che sarà del cinema. Il punto per fare una riflessione sull'eredità di 3 mesi di lockdown e di chiusura delle sale e l'imminente riapertura potenziale del prossimo 15 giugno, con lo sguardo già rivolto all'estate, ai festival, all'autunno. Insomma, come ha cambiato il cinema e i suoi spettatori il lockdown? Che cinema abbiamo visto durante la quarantena? Siamo diventati streaming dipendenti o la sala è sempre il luogo più bello del mondo per noi cinefili? E di contro, che cinema ci aspetta dal 15 giugno in poi? Dove e come lo vedremo? Quali film sono pronti? Quali set stanno per ripartire? Domande a cui proveremo a dare risposta con i tanti ospiti di tutta la filiera del cinema. Gli esercenti, che hanno sofferto forse più di tutti questa chiusura, rappresentati da Lionello Cerri dell'Anteo di Milano, che ci presenterà la nuova iniziativa Io resto in sala. La situazione dei set, che provano una faticosa ripartenza, e il collega Gianluca Pisacane ci dirà quali film stanno ripartendo e quando saranno pronti. E poi altri due colleghi, Giorgio Viaro e Valerio Guslandi, per fare il punto sul ritorno in sala e soprattutto sui film, quelli che hanno confermato l'uscita estiva e quelli che al momento sono previsti per l'autunno. E ancora Lili Hinstin, direttrice del Festival di Locarno, per dirci che edizione sarà quella del prossimo agosto per il Pardo, primo grande festival in ordine cronologico, Venezia a settembre, che prova a tornare in pista in qualche maniera dopo l'inizio della crisi. Ma non possono mancare gli artisti del cinema, registi e attori. E ad aprire le danze abbiamo chiamato un grande nome del cinema italiano, che mette insieme le due figure e che forse è quello che ha pagato il dazio più alto al lockdown, col suo nuovo film che era pronto sui furgoni dei corrieri per la consegna nelle sale di tutta Italia e che invece ha dovuto subire una brusca frenata. 3, 2, 1. Io il morto per inguinare non lo voglio, Io sono una classica donna fragile, cornuta, ma non è vero, io non sono fragile. Però sei cornuta. Mamma, ma chi ti ha portato qui? Ma questi chi sono? Sono 3 stronzi. Ma quale carattere? Ma parcheggia la Sereno. I giri urbani, ufficio di emozioni? Hanno fregato la macchina. Nell'occhio a questa analisi c'è qualcosa di strano. Ma lui lo sa. Ma Amedeo! Adesso il problema è come dirglielo. Voi cosa dovevate dirmi? Si parte e si va in vacanza. Che bel regalo che mi avete fatto! Purtroppo non è una vacanza questa, lo dico a te, lo dico a te. Mi piacerebbe sapere cosa pensate di me. Se vuoi te la dico io, la verità su di te. No, Amedeo, però devi levare sta mano. Ci sono andato a letto. No. Io spero che tu, in questa cazzata, gli abbia detto però la verità. Non gliel'hai detta? Sta ragazza è diventata una cosa surreale. Professore. Ma voi siete duzzozzoni, ma che mi avete messo in mezzo, ma avete? Ma volete far fare hot dog? E l'avete riconosciuto, è con noi alla Rosa Purpurea speciale 2 giugno Carlo Verdone. Ciao Carlo, grazie per aver accettato il nostro invito a portare un contributo alla nostra trasmissione di oggi, una riflessione da cui far scaturire poi il dibattito con tanti ospiti. Come dicevamo prima, Carlo, la festa del 2 giugno è la festa della Repubblica, quindi forse è il momento migliore per riflettere su quel che siamo e su quel che vogliamo diventare, anche nel cinema. Quel che è certo è che quello di oggi è un paese radicalmente diverso da quello di soli 3 mesi fa. Come ha cambiato l'Italia questa pandemia? E qual è il tuo augurio, Carlo, per la ripartenza? Cosa posso pensare il giorno della festa della Repubblica? Sono Carlo Verdone. Che l'Italia diventi veramente una Repubblica più seria, come era quella Repubblica alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E poi, piano piano, nei decenni, è andata verso un degrado delle persone che l'hanno guidata. Abbiamo avuto ottime persone e poi abbiamo avuto persone assolutamente che hanno pensato ai loro affari, al loro orto, al loro partito e hanno pensato molto poco ai bisogni della gente. Questa pandemia ci ha cambiato molto, ci ha fatto capire che l'Europa, che doveva essere unita, lo è, ma con lo scotch, quindi ci aiutiamo a vicenda con molta fatica e anche con qualche volta anche con un po' di disprezzo. E questo mi dispiace molto, perché invece dovremmo essere molto molto uniti. Lo spettacolo come cambierà tutto? Io vedo che la gente incomincia piano piano ad essere seriamente preoccupata, perché ci sarà una grande disoccupazione, i lavori si stanno ridisegnando grazie anche al fatto dello smart working, quindi è stato compreso che insomma si può lavorare anche da casa, quindi molti che lavoravano in ufficio, avevano un lavoro stabilito, incominciano piano piano ad aver paura che il loro lavoro cambi prospettiva, e quindi c'è una grande confusione, una grande paura di povertà, ecco, di povertà. Io forse faccio parte di una categoria più fortunata, non lo so, però il mio pensiero va a quelli che hanno meno fortuna e che si meriterebbero una vita migliore. Io spero che ci sia quella solidarietà iniziale nell'affrontare la pandemia che ho visto in questo paese, quella mi è piaciuta. Poi piano piano, ma lo capisco anche, la gente ha cominciato un po' a debordare. Però tutto sommato, insomma, abbiamo fatto il possibile con qualche errore. Sì, qualche errore c'è stato, però abbiamo fatto il possibile. Grazie Carlo Verdone, grazie davvero, ci hai un po' aperto le porte a questa puntata. E allora noi andiamo subito da un collega, Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, per entrare un po' più nel vivo delle tematiche affrontate da Verdone. Ciao Giorgio e ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Ciao Franco e grazie come sempre per i tuoi inviti. Allora Giorgio, si va verso la riapertura con tanti timori e molti distinguo. Dal 15 giugno i cinema possono riaprire, ma non è detto che riaprano chiaramente. E allora ti chiedo, dal tuo osservatorio, qual è il polso della situazione, anticipando ai nostri ascoltatori che sui titoli sentiremo più tardi l'approfondimento di Valerio Guslandi. Giorgio. Riapriranno davvero. Io tendo a non essere né catastrofista né troppo ottimista in questi casi, quindi magari qualcuno riaprirà, certo. L'estate già non è un momento particolarmente favorevole per il prodotto, quest'anno pare che non ci sarà quasi niente, perlomeno per ora non è stato annunciato niente che vada al di là della riproposizione di film che sono già usciti in streaming o che erano già usciti in sala al momento del lockdown, quindi considerate anche tutte le spese che vengono richieste agli esercenti per sanificare i locali, io credo che saranno davvero in pochi a riaprire e comunque con poco entusiasmo. Il laboratorio più adatto al ritorno del pubblico davanti a un grande schermo sono forse le arene estive. Non sarebbe stato meglio affidare a quel tipo di esperienza di visione il ritorno graduale alla sala? Fra poco sentiremo anche cosa ne pensa Lionello Cerri, ma dici un po', Giorgio. Beh, a mio parere senz'altro, ma probabilmente così sarà, anche perché sicuramente le persone si sentiranno, al di là di come andrà la curva del contagio, che poi sarà un elemento decisivo, no? Per questa riapertura almeno parziale, io credo che in generale le persone nello stare all'aperto si sentiranno più tranquille. Estate significa anche festival, e festival significa Venezia, e anche Locarno, fra poco sentiremo la direttrice Lily Hinstein. Però parliamo del Lido, Venezia ha confermato sin qui le sue date, ma come si fa un festival di quel livello con il distanziamento sociale, le mascherine, i numeri chiusi, e soprattutto le star e i grandi film verranno? Io credo che Venezia sarà un festival molto diverso da quello a cui siamo abituati, credo che saranno presenti soltanto o quasi soltanto talent italiani e produzioni italiane, molto probabilmente i film stranieri che accetteranno di presenziare al festival, e mi viene da pensare che molti saranno legati anche all'uscita in streaming, perché poi bisogna vedere anche a livello globale quanto e quando e con quali film riapriranno le sale. Beh, insomma, i talent stranieri legati ai film che accetteranno di essere presenti a Venezia più probabilmente parteciperanno anche a livello di attività stampa in streaming, con attività in streaming sicuramente ci sarà meno stampa, e per quanto riguarda il pubblico, chissà, anche lì con ingressi in sala contingentati e un numero di biglietti molto ridotto. Penso che per esempio le proiezioni di gala potrebbero riguardare poco più del cast and crew dei film e delle produzioni e delle distribuzioni che sono coinvolte. Grazie a Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, a risentirci presto. Grazie a te Franco, a risentirci, spero anche a rivederci presto, magari proprio al Festival di Venezia. Vediamo subito la linea alla viabilità. Fra poco però il nostro speciale Rosa Purpurea del 2 giugno continua con Lionello Cerri, che ci racconterà questa nuova iniziativa che si chiama Io Resto in Sala, che lega la visione in streaming dei film alle sale del territorio, ai vostri cinema di quartiere, quelli che preferite quando potete andarci. E parleremo anche chiaramente della riapertura delle sale e delle arene estive. Fra poco. La Rosa Purpurea. Vieni al cinema insieme a me, c'è l'attore che piace a te. Ma chi è, ma chi è? Ma chi sarà, ma chi sarà? Frank Sinatra tu penserai, l'uomo che non tramonta mai. Lui non è, lui non è. Ma chi sarà, ma chi sarà? Cantava così Celentano in questo brano del 68, l'attore in cui invitava una donna a venire al cinema a scoprire il suo attore preferito. Chissà quanta fatica avrebbe dovuto fare il molleggiato per convincerla oggi dopo il Covid. Dal 15 giugno possono riaprire i cinema. Lo faranno e come? Ne parliamo con Lionello Cerri, patron di Anteo e organizzatore di Fuori Cinema, che la scorsa settimana ha presentato una nuova iniziativa, Io Resto in Sala, che mira a legare la visione in streaming a pagamento di film nuovi a una sala cinematografica fisica sul territorio. Raggiungiamo Lionello Cerri al telefono. Ciao Lionello. Ciao, buongiorno a tutti. Parliamo un po' di Io Resto in Sala. Cos'è e come mette in relazione i film con le sale del territorio? Ma Io Resto in Sala è un'iniziativa che abbiamo fatto insieme a 70 colleghi italiani, quindi c'è una rappresentanza che va dalla Piemonte fino alla Sicilia e alla Sardegna, dove ci sono le sale che hanno rapporto con il pubblico quotidiano, che in questo momento di chiusura evidentemente avevano perso questo tipo di rapporto e soffrivano dell'impossibilità di dialogare con il proprio pubblico. È un'idea che alcuni di noi avevano da tempo, cioè quella di riuscire a riportare il pubblico che normalmente affolla le nostre sale anche per far vedere il film con i dovuti modi, però da casa, cioè quei film che non erano stati visti in sala, che in questo momento di lockdown non si possono vedere in sala, quindi farli vedere nel web attraverso la piattaforma di ogni sala, cioè uno spettatore può entrare nel sito di un cinema, acquista un biglietto rispetto al film che desidera vedere, gli arriva un codice e può vederlo a casa sua sul suo televisore. Su questa iniziativa siamo partiti il 26 di maggio con tre anteprime, il film Favolacce, il 28 è stata la volta di tornare il film di Cristina Comencini e il 29 c'è stato l'invasione degli orsi in Sicilia, quindi è un'iniziativa che continuerà, Io Resto in Sala, anche nel momento in cui apriranno le sale, e sarà, diciamo così, un momento di accompagnamento dalla sala al web. Come si difende, Lionello, l'unicità della sala cinematografica dall'assalto dello streaming, reso ancora più forte dalla crisi in atto? C'è il rischio che la gente si abitui a fruire novità a casa invece che in sala e poi che sia difficile recuperarle alla sala? No, io come i miei colleghi siamo sicuri che il rapporto che c'è tra una persona, un pubblico e la sala è una questione unica, nel senso che la possibilità di condividere un film, un documentario o un'iniziativa qualsiasi all'interno di una sala ti dà un senso di comunità e la possibilità di stare insieme agli altri, mentre quello che riguarda la visione a casa chiaramente è una scelta che tu puoi fare per fartela con la tua famiglia e quindi, diciamo così, è un tipo di visione molto diversa. Quando riapriranno le sale e noi continueremo con la nostra proposta Io resto in sala, sarà chiaramente una programmazione di tutti quei film che hanno diciamo ottemperato quelle che sono le regole del mercato. Quindi le regole del mercato dicono che un film che esce in sala dopo la prima uscita devono passare 105 giorni per essere visto online, e noi ovviamente seguiremo questa logica, questo accordo tra le parti, e quindi in sala si potranno vedere alcuni film e parallelamente sulla piattaforma digitale se ne vedranno altri. Quindi sono molto fiducioso che le due, diciamo così, contemporaneità si possano articolare, si possano regolamentare, possono essere diciamo così sinergiche tutte e due per dare una proposta ancora e sempre di più articolata. Leonello, rispetto alla data delle riaperture possibili dal 15 giugno, voi come gruppo Anteo come vi comporterete? Ma noi stiamo verificando tutte le condizioni che saranno imposte dal Comitato Tecnico Scientifico e quindi dalle autorità, e in questo momento alcune di queste indicazioni sono molto restrittive. Stiamo verificando il cambiamento di queste per prepararci evidentemente ad aprire prima le arene estive, perché all'aperto il distanziamento è più semplice, non è al chiuso, quindi diciamo il pericolo di contagio è molto diverso, e dall'altra parte qualche giorno dopo aprire anche il cinema al chiuso con tutte quelle che sono le disposizioni del caso. I film che verranno programmati saranno i film programmati per la stagione, della stagione passata, e stiamo pensando anche a delle rassegne monotematiche o a un altro tipo di rassegne. Diciamo che quei film che dovevano uscire nelle sale e non sono passati in streaming non usciranno prima di settembre del 2020. Grazie a Leonello Cerri di Anteo, e a risentirci presto alla Rosa Purpurea. Grazie a voi, un abbraccio a tutti quanti. Fin qui il cinema pronto, bloccato, ripreso, annunciato, ma in qualche modo presente e visibile. Però il lockdown ha colpito duro anche nel settore produttivo. Dall'8 marzo di film non se ne girano più, e se anche i cinema dovessero riuscire ad aprire prima dell'estate, sarà difficile avere nuovi film prima dell'inverno. Per non parlare poi di quei film spezzati in due dal coronavirus, qualche settimana di riprese e poi lo stop. Attori a casa, stagioni che cambiano, luci che mutano. Il cinema è materia sensibile, un film iniziato a febbraio non lo puoi riprendere a luglio, non sempre almeno, soprattutto se giri in esterna. Pochi giorni fa comunque le componenti della produzione cinematografica, riunite nell'Anica, hanno trovato un'intesa per un protocollo di riapertura dei set. Tamponi a tutti gli attori, distanziamento, mascherine, addio baci, chi lo sa. Il tutto ovviamente con un gravame di ulteriori costi calcolati nel 20% circa dei budget. Perché se due ore al giorno le perdi per fare tamponi e distanziamento, un film da 8 settimane ne richiede 10 per essere completato. Noi abbiamo voluto fare il punto su questo aspetto con Gianluca Pisacane, collega della rivista del Cinematografo, che ha curato un'approfondita e interessante inchiesta sul tema, presente nel prossimo numero della rivista. Ciao Gianluca e ben trovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Rosa Purpurea e buongiorno a te Franco, grazie mille di avermi invitato. Hai realizzato questa inchiesta approfondita sui set bloccati, film fermi o rimandati, quelli che hanno scelto lo streaming e quelli che aspettano la sala. Che quadro viene fuori? Ma il quadro che viene fuori è abbastanza allarmante. Quello che abbiamo scoperto anche con Marina Sanna, il vice direttore della rivista, che ha collaborato tantissimo a queste inchieste, è che ci sono decine e decine di film di set interrotti, di film sospesi, rimandati, altri hanno scelto di uscire direttamente sulle piattaforme streaming col fatto che le sale erano chiuse. Quindi il problema non è soltanto a livello distributivo, come abbiamo potuto vedere tutti, allegato alle sale, ovvero i cinema sono chiusi, ma è anche legato soprattutto a un problema produttivo, ovvero per mesi tutti i set sono rimasti fermi e l'industria cinematografica si è completamente fermata. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Le piattaforme streaming hanno preso molto più piede da un punto di vista degli abbonamenti, quindi si tratta di tante storie accomunate tra di loro da una necessità di ripartire. Quello che ci hanno appunto detto tutti è che sono pronti a ripartire in qualsiasi momento, però c'è la necessità di farlo in sicurezza e bisogna capire anche che cosa significa da un punto di vista di protocolli questa sicurezza. Gianluca, partiamo allora dai set bloccati che potrebbero ripartire. Molti grandi nomi del nostro cinema fermi al palo. Raccontacene qualcuno con le loro case history. I registi italiani bloccati sono tantissimi, ne cito alcuni, John Scarpignano con A Chiara, che stava girando a Gioia Tauro, Resilient di Roberto Faenza, Qui rido io di Mario Martone, Leonora Addio di Paolo Taviani, che è stato rimandato. Alcuni tra virgolette sono stati magari più fortunati perché avevano già completato gran parte delle riprese. Mi riferisco per esempio a Qui rido io di Mario Martone con il suo film appunto su Edoardo Scarpetta con Tony Servillo come protagonista. Le settimane di riprese dovevano essere 8 e ne avevano già completate 6. Altri invece dovevano proprio ancora iniziare la lavorazione. Secondo me un caso interessante di cui parlare è Resilient di Roberto Faenza, che racconta la storia del premio Nobel Mario Capecchi, e quello che ci raccontava proprio la produttrice Elda Ferri è che intanto avranno un problema temporale legato agli attori, nel senso che nel film ci dovevano essere molti bambini e nel momento in cui i bambini sono piccoli e si rinvia il film, questi bambini necessariamente crescono e si rischia di dover rifare il casting. Poi era una grossa coproduzione internazionale e quindi diventa difficile mettere d'accordo sia gli attori e la parte produttiva italiana con quella estera. E poi dopo c'è il problema di cui ha parlato, che è quello delle assicurazioni, nel senso che in questo momento è molto quasi nessuno ti assicura sul coronavirus, e a quel punto lì come devono comportarsi i produttori italiani nel momento in cui uno dei loro attori si ammala per il coronavirus? Quello che viene fuori è che c'è molta inquietudine e soprattutto molta confusione. Gianluca, mi ha molto incuriosito nella vostra inchiesta un aspetto, visto che molti registi sono preoccupati per le scenografie o per la luce, per esempio Michele Placido, che a novembre non è più quella dell'estate. Il caso di Michele Placido e dell'Ombra di Caravaggio è molto interessante perché qui stiamo parlando di un film estremamente complesso, con un cast internazionale che va da Riccardo Scamarcio, Garrel fino a Isabelle Huppert addirittura, e loro avevano terminato tutti i sopralluoghi e gli mancavano soltanto alcuni permessi. Avrebbero girato a Viterbo, Roma, Napoli, e si tratta di un film che è già stato anche tra l'altro prevenduto molto all'estero, e hanno un minimo di 11 settimane di riprese, e in questo momento hanno tutto il materiale che è bloccato e accatastato nei loro uffici, da pezzi che possono essere legati alle scenografie, ai costumi, quindi c'è molta inquietudine per quanto riguarda questo aspetto. E poi dopo, soprattutto essendo un film come Caravaggio molto legato a una certa anima pittorica, quello di cui mi parlava Placido era legato proprio alla luce. Devono girare 11 settimane, però possono rimandare l'inizio delle riprese fino a ottobre, poi dopo da novembre le luci iniziano a farsi sentirsi un po' troppo soffuse per la loro storia, per l'idea che avevano in mente da un punto di vista di messa in scena. Grazie a Gianluca Pisacane e a presto. Grazie mille Franco, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e per chi fosse interessato ad approfondire e a leggere l'inchiesta che abbiamo fatto, la trovate sul numero di giugno della rivista del Cinematografo. Ora linea alla regia, fra poco torniamo e parliamo dei festival. Come sarà il festival del futuro prossimo Venturo? Come si fa un festival col distanziamento sociale e le mascherine? Ne parleremo con Lily Hinstein, direttore artistico del Festival di Locarno, e poi Valerio Guslandi per raccontarci con quali film riparte il cinema da qui all'autunno, fra quelli già confermati e quelli in via di posizionamento. La rosa purpurea. Gli uomini del cinema hanno fatto da un pezzo la pace con l'Italia. Il programma della mostra lo dice chiaramente. Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti, Francia e Svezia hanno mandato il meglio della loro produzione. L'Italia presenterà Monte Cassino, Paisà, Il Sole Sorge Ancora ed Eugenia Grandi. Il classico successo di quella veneziana ha moltiplicato le mostre del cinema, ma a Venezia rimane la cornice incomparabile dei sogni in bianco e nero e in Technicolor. L'inizio dello spettacolo è imminente. L'onore di aprire la mostra tocca per sorteggio al film inglese Scarpette Rosse di Powell e Pressburger. Da tutto il mondo sono arrivati i film per il decimo festival. Il Leone d'Oro di San Marco al film L'année dernière à Marienbad. Venezia, Venezia, il Lido. Gente che va, gente che viene sulla spiaggia del Lido. Suggestioni del passato dalla Mostra del Cinema di Venezia, attraverso i cinegiornali dell'Istituto Luce. E qui il sapore d'antan assume i contorni di una distanza siderale, perché la pandemia ha cambiato radicalmente anche i festival del cinema, almeno quelli più vicini cronologicamente all'esplosione del contagio. Anche qui la musica è la solita, festival rimandati, annullati o celebrati totalmente in streaming, ma un festival, si sa, ha una sua identità precisa, ha bisogno del pubblico, dei protagonisti, del loro incontro, magari per un sorriso o un autografo sul tappeto rosso, e di centinaia, migliaia di giornalisti e critici che quei film raccontano e quegli attori intervistano per creare l'attesa e la magia del cinema. Ecco, questa descrizione è al momento quanto di più lontano dalla realtà dei festival. Ma come diceva Vasco Rossi, c'è chi dice no e compatibilmente con la doverosa osservanza delle norme sanitarie cerca di ristabilire un rapporto col pubblico. È il Festival di Locarno, il primo fra i grandi festival ad affrontare la riapertura, seppur parziale, agli spettatori dopo l'annullamento di fatto di Cannes, che domani comunque in una conferenza stampa abbastanza bizzarra metterà il cappello, perdon, la coccarda con la palma su quei film che avrebbe dovuto avere, quasi a segnare il territorio, ma anche ad agevolarne il percorso nella ripartenza nelle sale. Insomma, sarà annunciata la selezione che non c'è stata, ma che facciamo finta ci sia stata. E poi Giffoni, che sceglie la chiave fisica, con misure di sicurezza e ingressi contingentati, dal 18 agosto, ma si splitta in quattro tranche fino a dicembre per evitare il sovraffollamento. E poi Venezia, che al momento ha confermato le date dal 2 al 12 settembre, ma non il modulo online, presenza fisica o ibrido, né tantomeno ovviamente le opere o le star. Pare che la Biennale abbia chiesto in tal senso rassicurazioni alle major americane. Ma dicevamo Locarno, dal 5 al 15 agosto. Di questo parliamo con Lily Hinstein, direttore artistico del Festival del Pardo. Buonasera Lily e benvenuta alla Rosa Purpurea. Buongiorno a tutti e piacere di essere con voi. Allora Lily, dicevamo, il Festival di Locarno è il primo fra i grandi festival del cinema in senso cronologico ad aver confermato le sue date e una modalità di svolgimento che, seppur in gran parte online, prevede anche l'utilizzo delle sale cinematografiche. Ce la racconta un po', che festival sarà Locarno 2020? Dall'inizio della crisi del Covid noi abbiamo iniziato a lavorare su diverse ipotesi per quanto riguarda il festival. Dovevamo decidere abbastanza in fretta per ragioni finanziarie, organizzative, eccetera, e d'altro canto non volevamo lasciare i nostri partner dell'industria cinematografica al buio e nell'incertezza. Quindi, dopo aver valutato diverse ipotesi, abbiamo dovuto aspettare le prime raccomandazioni della Confederazione Svizzera, che ha annunciato ad aprile il vietamento degli di grandi eventi che avrebbero accolto più di 1000 persone. A questo punto noi abbiamo dovuto decidere di cancellare la 73esima edizione del Festival di Locarno e abbiamo da lì cercato di ragionare e di risolvere l'equazione di cosa proporre al pubblico, a che cosa serve il nostro festival e come possiamo continuare la nostra missione di servire i film. Quindi abbiamo deciso che non aveva senso proporre una selezione di lunghimetraggi in mezzo al mese di agosto dopo il confinamento online e abbiamo cercato di pensare come potevamo invece aiutare i registi. Abbiamo quindi deciso di offrire una parte dei premi in denaro che di solito si davano ai vincitori dei concorsi e di fare due parti speciali dedicati a dei film, a dei progetti fermati per causa della crisi sanitaria mondiale. Abbiamo lanciato una call for entry e selezioneremo con il comitato di selezione 10 film o progetti internazionali e 10 film o progetti svizzeri e ci sarà una giuria per ogni selezione di soli registi in modo da non esporre questi progetti in fase di lavorazione all'industria cinematografica, ma piuttosto di proporre una cosa di fraternità tra colleghi. E uno di questi registi potrà ricevere 70.000 franchi svizzeri per aiutarlo a finire il suo film. Per poter proporre qualcosa al pubblico, chiederemo a questi 20 registi selezionati di scegliere un film nella storia del Festival di Locarno e questi 20 film costituiranno una specie di viaggio soggettivo nella storia del festival. Per il pubblico online proporremo anche uno sguardo negli archivi del festival e stiamo lavorando a tirar fuori materiali rari o inediti. Questo è proprio un anno speciale che ci concede di fare progetti speciali che nel caso degli archivi sono tipicamente il genere di cose che non si ha mai il tempo di fare, o nel caso dei concorsi di Parti di Domani online o della selezione Open Doors online, sono delle sezioni del festival che sono meno prestigiose, per esempio della Piazza Grande o del concorso internazionale, e sarà un angolo inedito per scoprire il festival quest'anno. Le proiezioni fisiche ripercorreranno la storia del Pardo. Ci può annunciare qualche scelta fra quelle che avrete sul grande schermo? Il 27 maggio la Confederazione Svizzera ha annunciato che le sale cinema riapriranno e ci sarà il permesso di proiettare dei film fino a 300 persone in delle sale cinematografiche. E in questo contesto abbiamo deciso di fare tutto il possibile per poter mostrare dei film nelle sale cinematografiche che già esistono a Locarno, cioè il Rex, il Palacinema, il Palavideo di Muralto, e in queste sale proporremo i cortometraggi Parti di Domani, i film di Open Doors e anche alcuni film di questo viaggio nella storia del festival. Locarno non vive di glamour come Cannes o Venezia, un festival molto partecipato e molto giovane, ma ciò nonostante sono molti i grandi nomi del cinema mondiale, anche popolare, ospitati negli anni per esempio in Piazza Grande. Come fa un festival a fare a meno di tutta quella componente fatta di tappeti rossi, interviste, premiazioni pubbliche e di un pubblico fisico? Non è un po' limitante? Non è snatura un po' l'anima? Ovviamente un festival non può fare a meno di tutto questo, per questo abbiamo cancellato l'edizione 73 di Locarno e abbiamo creato questo Locarno 2020, 2020, che sarà un'esperienza, sarà un'edizione molto particolare fatta di proposte, e abbiamo cercato di immaginare proposte adeguate alla situazione. Una curiosità, non si poteva proprio fare un festival solo all'aperto, dove è più facile tenere il distanziamento, che avesse magari come epicentro proprio Piazza Grande, con i suoi 8.000 posti, che seppur ridotti anche a 1.000, avrebbero potuto garantire comunque una possibilità di controllo? Abbiamo sognato a lungo di fare il festival anche solo sulla Piazza Grande, e abbiamo, essendo limitati a 1.000 persone, abbiamo cercato di esplorare molte opzioni, di fare un drive-in oppure di fare una piazza uguale alla prima Piazza Grande del 73, dove erano 1.000 persone appunto. Però alla fine ci siamo resi conto che a livello sanitario era troppo rischioso, e quando abbiamo preso questa decisione le incertezze erano troppe per poterlo fare senza mettere in pericolo la salute del nostro pubblico. Lili, come cambierà per lei il cinema dopo questa crisi? Il modello dei festival cambierà o si tornerà a quello che per noi è stata per anni la normalità? Per i festival direi che comunque la questione maggiore è la questione dell'andare online o digitale. È ovvio che niente può rimpiazzare la fisicità, gli incontri, la taglia degli schermi, l'atmosfera, tutto quello che fa un festival. Comunque la questione del digitale si poneva anche prima di questa crisi, ed è una cosa che tocca tutta l'industria cinematografica e sulla quale ci saranno adeguamenti e cambiamenti da fare sicuramente. Grazie Lili Instin e arrivederci, speriamo, a Locarno. Grazie molto dell'invito e spero di ritrovarvi tutti a Locarno, se non quest'anno, almeno nel 2021. Grazie, arrivederci. Ultimo passaggio con la viabilità, fra poco torniamo insieme con Valerio Guslandi, vi anticipiamo tutti i film che ritroverete in sala a partire dal 15 giugno, quando le sale potranno riaprire, e sarà davvero una grande abbuffata, fra poco. La rosa purpurea. In questo brano del 2012, intitolato Kevin Spacey, il mitico Caparezza, mi permetto una piccola digressione musicale, secondo me oggi forse il miglior cantautore italiano in circolazione, e la parola cantautore è proprio voluta, spoilerava i finali di ben 28 film, da Armageddon ai Soliti Sospetti. Oggi l'attesa dei cinefili per il ritorno in sala è forse addirittura a prova di spoiler, o forse no, ma vale lo stesso la pena fare un punto sui film più attesi alla ripartenza. Abbiamo detto, il 15 giugno si possono riaprire i cinema, e noi vogliamo capire con quali film, insieme a Valerio Guslandi, giornalista cinematografico, ex vice direttore di Chuck e amico della prima ora di questa trasmissione quando ancora si chiamava Grande Schermo. Caro Valerio, ciao, è sempre un piacere ritrovarti. Grazie Franco, ben trovato anche a te. Valerio, facci un po' da guida a quali film potrebbero guidare la ripartenza dei cinema. Partiamo dal 15 giugno, ammesso che le sale vogliano riaprire, quelle che riapriranno che film proietteranno? Beh, diciamo che siamo in un campo molto di ipotesi, visto che non è mai successa una cosa del genere. Ci sono dei film che dovevano uscire e suppongo che comincino a mandare fuori questi, visto che sono pronti. Soprattutto Un amico straordinario con Tom Hanks, che è dedicato alla figura di un entertainment televisivo americano molto noto, o anche la versione nuova di Charlie's Angels, questa volta con Kristen Stewart, Naomi Scott e Della Balinska, e anche Aiden's Life di Terrence Malick, che era premiato a Cannes nel 2019 dalla giuria ecumenica e racconta di un obiettore di coscienza austriaco perseguitato dai nazisti. Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Quella motocicletta, il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato e ho capito com'era facile la vita allora. E sempre con Tom Hanks c'è anche A Hound, dove lui interpreta un tenente americano che guida una flotta nei primi 10 giorni di guerra di entrata in guerra degli Stati Uniti, guida una flotta internazionale che deve sfuggire a quella molto agguerrita dei giapponesi. E poi, se vogliamo, ci sarebbe anche The Woman in the Windows con Amy Adams, che è un thriller su una psicologa malata di agorafobia, chiusa nella sua casa, ma da qui assiste a un omicidio che le cambia tutta la vita. Passiamo alle rene estive. Stesso materiale o c'è la speranza che vengano usate magari per lanciare qualche piccolo film indipendente? Ma credo che il termine piccolo film indipendente freni un po' lo spettatore medio ad andare in una sala, anche se si tratti di rene estive, e dove sicuramente c'è una sensazione di maggiore sicurezza in questo periodo. Io credo che sia più facile per le arene andare avanti con titoli grossi annunciati per luglio-agosto, vedi il caso di Mulan di cui parleremo poi più tardi magari, e riprendere, perché no, quelli che sono stati penalizzati dalla brusca interruzione, per esempio Gli anni più belli di Muccino, che è uscito il 13 febbraio e gli hanno bloccato la sua vita dopo soltanto 2 settimane. Fermati! Oh, ma voglio vederlo, voglio vederlo. Ma che sta dicendo? Andiamo via. Ma levati. Gemma. Ora voglio vedere. Gemma. Riccardo. Gemma. Gemma. Riccardo. Ma lo vedi che sei te? Riccardo. Oh, ma come stai? Bene. Oh, bene. Oh, sopravvissuto. Oh, c'è pure Paolo. Paolo, vieni. Siete appiccicati voi due, eh? Sì. Beh, ti ho provato a cercare, ma hai cambiato casa. Non ero pure preoccupato, non ti riuscivo più a trovare. Come stai? Bene, come stai? Bene, lavoro qui al ristorante al Portoghese. Infatti è da qua che ti ho visto sci. E voi invece che fate? Che famo? Lui insegna al Visconti adesso. Letteratura italiana, latino e greco. Sì, pure greco. No. Ah, già. Ed eccoci a settembre. Dopo Venezia, e vedremo che Venezia sarà, quali saranno i primi film temerari ad affrontare la sala per la loro prima uscita? Beh, temerari, secondo a quanto risulta fino ad oggi, cominciano prima di quel che sarà Venezia. Per esempio hanno spostato ad agosto il thriller molto atteso A Quiet Place 2, che è diretto ancora e interpretato da John Krasinski insieme alla moglie Emily Blunt, e anche la fantascienza di X-Men The New Mutant, anche se non è che proprio questo mi attiri molto me, per esempio, perché è un po' un genere che sta scemando. Però a settembre potrebbe essere anche il momento buono per mettere in pista Il ritorno al crimine di Massimiliano Bruno. Era stato bloccato il 12 marzo, è il sequel del fortunatissimo Non ci resta che il crimine, con Giallini, Alessandro Gasman, Edoardo Leo e Gianmarco Toniazzi, e credo che settembre sia un momento buono per il cinema italiano per uscire, perché adesso forse rischierebbe di essere disperso. Fermi tutti! Questa è una rapina! E voi chi siete? Amigis! Amigis siete! Basta con sti viaggi nel tempo, raga! Ho dovuto fare i salti mortali per venire a riprendere! Mo sentivo che sareste tornati. Direttamente dal 1982. Si sciasso strunzo. Penso si riferisca a lui. Devi portare un ritratto originale di Van Gogh. È una settimana di tempo. No! Per aprire la fotogallery, toccare lo schermo. Chi sei? Te la senti di fare l'astrattista? È l'unico modo per mettere le mani su quel quadro. Ti prego, facciamo una storia insieme. La storia mi pare un po' esagerato, io al massimo te posso dare una botta. Capitolo blockbuster. Quelli annunciati per l'estate sono tutti rinviati, tranne Mulan, che è ancora previsto per il 24 luglio, poi Wonder Woman, SpongeBob. Insomma, la domanda è se questi titoli worldwide usciranno lo stesso per ottimizzare la promozione internazionale. Ma il capitolo blockbuster, dicevamo prima, appunto, Mulan lo confermano e riconfermano per il 24 luglio. E così anche il cartoon SpongeBob 2 il 31. Lo stesso vale per Wonder Woman nel 1984 a metà di agosto. È vero che alcuni blockbuster sono slittati in autunno, l'esempio più eclatante è quello di 007, che non appena è partita la questione del coronavirus l'hanno immediatamente spostato a novembre. È anche vero poi che alcuni film sono spostati nel 2021, ad esempio Ghostbusters Legacy, che andrebbe penso a marzo del 2021 e che è una prosecuzione dei primi due capitoli, tant'è che ne deriva alcuni suoi interpreti come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, ed è diretto dal figlio di Ivan Reitman, Jason, per continuare un po' una tradizione familiare. Nome? Bond. James Bond. Quindi non sei morto? Ciao, come sei mancato? Lui è il bene più prezioso di questa nazione. Se sente di perdere il controllo... No, non perderò. Il controllo. Titoli per l'autunno, The French Dispatch a metà ottobre e poi finalmente un novembre ricco con 007, Soul e Black Widow. Ci fidiamo? Beh, ci dobbiamo fidare per forza, almeno per il momento, per quello che ci viene annunciato. E l'autunno sembra davvero promettente, insomma, almeno ai livelli normali degli anni migliori. Al 20 di novembre appunto c'è No Time to Die di 007, la regia di Kei Fukunaga, che è quello che ha firmato la prima serie di True Detective, ed è probabilmente l'ultima volta, quasi sicuramente, di Daniel Craig nelle vesti di James Bond. Però appunto, come dicevi, ci sono French Dispatch, che è una bella storia sull'omaggio a un direttore scomparso di un supplemento francese di un quotidiano americano, è firmata da un regista sempre molto originale come Wes Anderson e ha un cast eccezionale. Citiamo solo qualche partecipante: Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Bill Murray, Adrien Brody. Ecco, già, si può capire già, come sempre nei film di Wes Anderson, che c'è tanta roba e tanti anche bei volti. E poi c'è Black Widow con Scarlett Johansson, che nel ruolo di una letale agente segreto russa. A dicembre c'è il cartoon Soul targato Pixar, firmato da Pete Docter, quello che ha diretto Up e Inside Out. E poi abbiamo un altro, veramente il blockbuster, che è Top Gun Maverick con Tom Cruise, e dovrebbe essere uno dei film di Natale, annunciato per il 23 di dicembre, così come si potrebbe essere un film natalizio, finalmente, il Si vive una volta sola di Carlo Veldone, che è stato bloccato al momento di uscire lo scorso mese di febbraio. Altro super atteso poi, ecco, è Tre piani di Nanni Moretti, che avrebbe dovuto essere a Cannes quest'anno e potrebbe andare direttamente al prossimo, visto che sappiamo tutti che c'è una particolare liaison fra il regista romano e il festival francese. Grazie Valerio Guslandi, davvero stato un piacere ritrovarti. E si chiude qui questa puntata speciale della Rosa Purpurea, dedicata al rapporto del cinema con il lockdown e soprattutto alla ripartenza delle sale, possibile dal 15 giugno. Speriamo di avere risposto ai tanti quesiti ancora aperti e soprattutto speriamo di aver contribuito a farvi tornare la voglia di andare al cinema, perché quel grande schermo e quella sala buia restano ancora il luogo più magico e inimitabile del mondo. Io vi do appuntamento a sabato alle 18, in replica domenica alle 17, orari tradizionali della Rosa Purpurea, per tornarvi a raccontare tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisi.